ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro VIII, versi 183-444. Su incarico di Minosse, re di Creta, Dedalo ha costruito il famoso labirinto dove è stato recluso il Minotauro. Teseo ha ucciso il mostro con l'aiuto di Arianna, figlia del re, ma appena sposata la abbandona sull'isola di Nasso e Bacco la trasforma in costellazione. Dedalo, nel frattempo, assai spazientito dal lungo esilio a Creta e trafitto dall'amore della sua patria, è prigioniero del mare. Se terra e acqua recludono, il cielo è aperto, riflette. Di là ce ne andremo, per quanto padrone di tutto, Minosse non è padrone dell'aria. Così riflette, e applicatosi a tecniche inesplorate, la natura reinventa. A partire dalle più piccole, mette in fila piume via via più lunghe, che riproducono il pendio su cui sembrano nate, come a volte. Una serie di canne diseguali compone una zampogna campestre. Collega le piume al centro con una corda, alla base con la cera, e saldate così appena appena le curva a mimare ali vere. Icaro, suo figlio ragazzo, gli sta addosso e, non sospettando di aver per le mani il destino, quando non acchiappa raggiante le piume che vagano nella brezza, ammorbidisce la cera dorata col pollice e, per divertirsi, intralcia lo stupendo lavoro del padre. Una volta data all'opera l'ultima mano, l'autore in persona si ingegna a tenersi in equilibrio col corpo sulle due ali e, battendole, resta sospeso in alto. Indi istruisce suo figlio. Attento a volare a mezz'aria, Icaro, dice, perché se vai troppo in basso le onde ti inzuppan le ali, il fuoco te le brucia se vai troppo in alto. Tienti a metà fra gli estremi e non incantarti a guardare Boote o Elice, dico, o la spada sguainata di Orione. Tu vieni dietro a me e nel dargli i rudimenti del volo alle spalle gli applica quel paio d'ali mai viste. Fra che dice e che fa, gli si bagna quel viso di vecchio, gli tremano quelle mani di padre, dà un bacio a suo figlio, non l'avrebbe baciato più, e si leva sulle ali piumate e gli vola davanti, tremando per lui come fosse un uccello che, estratti i pulcini dal nido, li portasse a spasso nel cielo. Gli ingiunge di stargli dietro, lo addestra nei rischi dell'arte e, nel batter le proprie ali, controlla le ali del figlio. Uno che sta pescando con la tremula lenza, un pastore appoggiato al bastone, all'aratro appoggiato un contadino, li guardano a bocca aperta spadroneggiare nell'aria. E li prendon per dei. Già vedono Samo, cara a Giunone, sulla sinistra, Delo e Paro, passate da un pezzo. Sulla destra Lebinto e Calimne, isola ricca di miele, che il ragazzo si lascia sedurre dal gusto folle del volo, abbandona la guida e, innamorato del cielo, punta più in alto. L'approssimarsi del sole cocente ammorbidisce la cera profumata che salda le piume e la cera si squaglia. Quello dimena le braccia spoglie e, privo di remeggio, non fa più presa nell'aria e l'azzurro dell'acqua che ora da lui prende nome inghiotte quella sua bocca che invoca il nome del padre. E il padre, lo sventurato non più padre, Icaro grida, Icaro dove sei? Come faccio a trovarti? Grida, Icaro va gridando, e come vede nell'acqua penne, ah sì, maledice la sua arte, e compone quel corpo nel sepolcro. Ora anche la terra ha il nome di chi seppellisce. Mentre Dedalo è lì che tumula quel suo povero figlio, lo scorge dal fango d'un fosso un uccello pernice pettegolo e schiocca le ali e attacca a cantare in segno di giubilo, all'epoca unico della sua specie di uccelli mai visto prima, ma per te, Dedalo, atto perpetuo di accusa. Sua sorella, in effetti, fidandosi, gli aveva a suo tempo affidato la formazione d'un figlio di 12 anni compiuti, ragazzo molto brillante, dotatissimo per lo studio, il quale, avendo fra l'altro osservato le lische d'un pesce, le aveva prese a modello e, incidendo una serie di denti nel taglio d'una lama, aveva inventato la sega. E aveva per primo abbinato con un perno due aste di ferro, di modo che a mantenere la stessa distanza fra loro, l'una restando fissa, l'altra tracciasse un cerchio. Morto di invidia, Dedalo lo aveva buttato di sotto dalla rocca di Minerva, fingendo fosse caduto. Ma Pallade, patronessa dei genii, lo prese che ancora volava e, rendendolo uccello, lo ricopre di piume. E l'energia dell'ingegno, vivissima un tempo, travasa nelle ali e nelle zampette. Il nome rimane lo stesso, pernice. Non eleva il suo corpicino d'uccello, peraltro, mai troppo, e non fa nido sui rami o sulla cima degli alberi. Volita a un palmo da terra, nelle siepi depone le uova, lo spaventa l'altezza perché gli ricorda l'antica caduta. Un Dedalo a pezzi guadagna la zona dell'Etna e re Cocalo, famoso per la mitezza, in difesa di lui che lo supplica, ha già preso le armi ed Atene ha già smesso di versare il doloroso tributo grazie all'impresa di Teseo. Si pavesano di festoni i templi, si invoca Minerva guerriera e Giove e quanti altri dei, e si immolano vittime in loro onore, si offrono doni, si bruciano incensi. La vagabonda fama ha diffuso per le città della Grecia il nome di Teseo, tanto che nel pericolo tutti i superbi achei non mendicano che il suo aiuto. E il suo aiuto, tremando di angoscia, sollecita Calidone, sebbene possa contare su Meleagro, causa un cinghiale, esecutore della collera di Diana. È così. Si narra che Eneo, in un anno di buoni raccolti, offrisse primizie di messi a Cerere, a Bacco il suo vino, il succo delle sue olive alla bionda Minerva e, omaggiati gli dei dei campi, a tutti gli altri dei devolvesse l'ambito tributo. Dimenticati senza un grano di incenso, si narra fossero solo gli altari della figlia, è così, di Latona. Anche gli dei vanno in bestia. Questa non gliela passo. Rinuncio d'accordo all'omaggio. Alla vendetta no. Detto, sui campi di Eneo, offesissima, sbriglia un cinghiale vendicatore, grosso talmente che i prati d'Epiro non conoscono tori più grossi, la Sicilia ne ha solo più piccoli. Gli occhi scintillano sangue e fuoco, il collo è tutto irto e setole dure come giavellotti gli si rizzano addosso, come una palizzata, giavellotti, appunto, le setole. Una schiuma bollente sfrigola scolandogli lungo le spalle, a denti che valgono quelli di certi elefanti indiani. Sprigionando di bocca fulmini, col fiato strina le foglie. E quando non pesta i germogli del grano, mozza le messi mature su cui contava il contadino, che adesso piange in quelle spighe il pane perduto. Invano le aie, invano i granai, il raccolto promesso lo aspettano. La terra si copre di grappoli gonfi e lunghissimi tralci, di olive con tutti i rami, del sempreverde ulivo. Sulle greggi pure infierisce. Non riesce a proteggerle né pastore né cane, né torvo toro a proteggere la mandria. Scappa la gente dei campi e si sente sicura soltanto dentro le mura della città, finché Meleagro non raccoglie un drappello di giovani molto ambiziosi. I figli gemelli di Tindaro, uno eccellente coi pugni, l'altro a cavallo, e Giasone, primo a mettere in mare una nave, e insieme a Pirito, Teseo, grandissimi amici, i due figli di Testio e quelli di Alfareo, Linceo ed Ida, una saetta, e Ceneo, ormai non più femmina, e il truce Leucippo, e da Casto famoso nel lancio del giavellotto, e Ippoto, e Driante, e Fenice, rampollo di Amintore, e i due gemelli figli di Attore, e Fileo, che arriva dall'Elide. Né Telamone manca, né il padre del grande Achille, né col figlio di Ferete e con Iolao di Beozia, Eurizione, svelto di mano e imbattibile a correre, Echione, e l'Elege della Locride, Panopeo, Ileo, il terribile Ippaso e Nestore ancora ragazzo, e quanti ha spedito dall'antichissima Amicle Ippocoonte ed il suocero di Penelope e Anceo dell'Arcadia del Sud. E Mopso, figlio veggente di Ampice, e quello di Encleo, non ancora tradito dalla moglie, e Atalanta, l'orgoglio dei boschi di Monte Liceo. Una fibbia lucente le ferma in alto la veste. I capelli le si avvolgono semplicemente in un unico nodo, appesa alla spalla sinistra, tintinna, la sua custodia in avorio delle frecce. E nella sinistra tiene anche l'arco, così sicura. Di faccia l'avresti detta un ragazzo che sembra una giovane donna, una giovane donna che sembra un ragazzo. Vederla e desiderarla, nonostante il divieto divino, è per il nostro eroe un'unica cosa, ed un fuoco lo fruga. Beato semmai ci sarà chi lei mai dovesse degnarsi di prendere. Altro gli impediscon di dire circostanze e timidezza, incombe ben altra caccia. Un bosco fitto di tronchi mai scalfiti traverso i secoli si arrampica in lento declivio a dominare la piana. Una volta arrivati lassù, c'è chi di quei prodi tende le reti, chi scioglie i cani, chi, seguendo le impronte del porco, non teme, anzi smania di mettere a rischio la vita. C'è una valle nel bosco scavata dai ruscelli nel convogliare le acque piovane. Il fondo melmoso è invaso da salici flessibili, alghe leggere, giunchi delle paludi, vimini e piccole canne all'ombra di canne più lunghe. Stanato di lì, il cinghiale si precipita in mezzo ai nemici come una furia, come un lampo da nubi che cozzano. Nella corsa gli alberi schianta e la selva scrollata rintrona. Cacciano un urlo i giovani e con mani forti brandiscono le lance, una siepe opponendogli di punte di ferro lucente. Quello si getta sui cani che fronteggiano la sua furia e con fendenti di zanna sbaraglia la muta latrante. L'asta scagliata per primo dal braccio di Echione intacca appena il tronco di un acero e lascia il tempo che trova. La successiva, non fosse lanciata con troppa veemenza, si sarebbe piantata a bersaglio nel dorso dell'animale. Invece va più lontano, a gettarla Giasone di Pagaso. Dice Mopso, figlio di Ampice, se ho onorato Febo, se onoro il tuo culto, consenti a questa mia lancia di andare a segno. Il dio lo esaudisce nei limiti del possibile. In pieno colpito, il cinghiale non perde sangue. Al giavellotto in volo, Diana ha sfilato la punta di ferro e arriva solo il bastone. L'ira del porco riavvampa e saetta più bieca del fulmine. Spruzza scintille dagli occhi, dal petto sbuffa fiammate. Come vola dalla correggia ben tesa della balestra, un macigno e si abbatte contro bastioni e torrette di guardia, si scaraventa sui giovani così la bestia assassina e sbatte per terra il palmo e il pelagone disposti sull'ala destra. I compagni di corsa li portano via. Ma Enesimo di Poconte non riesce a schivare la cornata letale, tremando volta le spalle e si sente falciare dietro il ginocchio e i tendini liquefarsi. E forse Nestore stesso sarebbe morto ben prima di Troia. Piantata però l'asta in terra, salta e di slancio si aggrappa ai rami d'un albero vicino e al sicuro, dall'alto in basso, sbircia il nemico che gli ha messo tanta paura. Furibondo quello, arrotate le zanne a un tronco di quercia, minaccia strage e, contando su quelle armi rimesse a nuovo, buca col grugno adunco la coscia del figlio di Eurito. E i due fratelli gemelli, non ancora stelle del cielo, i Dioscuri, tutti e due bellissimi, tutti e due su cavalli candidi più della neve, scrollano tutti e due per aria una lancia che vibra ad ogni strattone. E certo lo colpirebbero se con le sue setole non si cacciasse nel buio d'un bosco impervio a dardi e cavalli. Telamone lo insegue, ma imprudente per concitazione, inciampa nella radice d'un albero e casca bocconi. Lo rialza Peleo e lei, Atalanta, fanciulla d'Arcadia, incocca sul nervo la freccia, tende l'arco e la lascia partire. Ficcatasi sotto l'orecchio della bestia, la punta scalfisce appena la pelle ed arrossa le setole appena di sangue. Del suo bel colpo, comunque, più felice di lei è Meleagro. Si dice fosse lui il primo ad accorgersene, il primo a segnalare quel po' di sangue ai compagni e a dire: «Il merito è tutto tuo, tua tutta sarà la gloria». Arrossiscono i maschi, si fanno coraggio a vicenda gridando e cominciano tutti a scagliare lance a casaccio. La ressa intercetta quei lanci e impedisce che vadano a segno. E l'arcade dalla bipenne, imprecando contro i suoi fati, eccolo urlare: «Guardate come i colpi d'un uomo, ragazzi, vagano più di quelli d'una donna, ci penso io. Diana se la protegga come le pare. Mi spiace, ma io la bestia l'ammazzo lo stesso, con le mie mani». Pronunciate queste parole con la spocchia della retorica, solleva a due mani la scure a doppio taglio, si rizza sulla punta dei piedi e solleva le braccia all'indietro. La bestia previene il facinoroso e gli pianta due zanne al sommo dell'inguine, dove più breve è la via per la morte. Crolla Anceo e il gomitolo degli intestini gli scivola fuori inzuppando il terreno d'un torrente di sangue. Pirito, figlio di Sione, si avanza per fronteggiare il nemico, brandendo lo spiedo nella fortissima destra. E Teseo di Egeo sta alla larga, grida: «Tu, che mi sei più caro di me, non ti muovere, anima mia. Da lontano puoi essere forte lo stesso. Hai visto la fine di Anceo?» Dice e scaglia una lancia pesante con punta di bronzo che, calibrata benissimo, conseguirebbe lo scopo non la frenasse il fogliame d'un albero appena abbattuto. Anche il figlio di Esone lancia un dardo, ma il caso lo svia su un povero cane che latra. Gli si infila nelle budella e, una volta ben trapassate le budella, si ficca nel suolo. I colpi di Meleagro hanno esito alterno. Di due lance, la prima si pianta in terra, l'altra nel dorso della bestia, che impazza, ruota in cerchio impastando col sangue novello lo sfrigolio della schiuma. In un batter d'occhio l'autore del lancio è addosso al nemico, lo affronta, lo provoca e gli caccia un giavellotto lampeggiante in mezzo alle scapole. Con grida di gioia i compagni manifestano il loro entusiasmo, vogliono tutti stringere in mano la mano del vincitore e si guardano a bocca aperta il bestione che copre un enorme spazio di terra. Però non si fidano ancora a toccarlo, ma intingono nel suo sangue la punta, semmai, delle picche. E lui, calcando un piede sopra la orribile testa, fanciulla d'Arcadia, dice: «Questo trofeo che mi spetta, prendilo tu. La mia gloria voglio spartirla con te». E nel dirlo le offre la groppa irsuta di setole dure e il grugno insignito di denti spropositati. La bella ragazza è felice del dono e perché a farglielo è lui. Ma monta l'invidia degli altri, i quali borbottano tutti, e fra tutti i figli di Testio si mettono a urlare, sbracciandosi: «Molla, bellezza, e guardati bene dall'usurpare una cosa che è nostra. Ti sbagli a contare troppo sulla bellezza e sul fatto che lui abbia perso la testa per te». E a lei soffiano il dono, a lui il diritto di farlo. Meleagro, alunno di Marte, non ci sta, digrignando di rabbia: «Guardate, fa, ladri di gloria degli altri, quanto ci corre fra le minacce e il fatto compiuto!» E pianta la spada criminale in petto a Plessippo, che non se l'aspetta, e a Tosseo, in dubbio fra vendicarlo e la paura di far la stessa fine, non lascia il tempo di titubare, che già riscalda nel sangue di questo secondo fratello la lama ancora bollente dell'assassinio del primo.